Me ne andrò così come sono venuto, facendo piangere mia madre. La ruggine decora la mia faccia. Il mio cuore l'ho diviso tra lo spaventapasseri, il leone e l'uomo di latta. La prima gaffe di Dorothy, appena messo piede ad Oz, fu di non aggiustarsi i capelli alla Tutti Pazzi per Mary prima di domandare indicazioni per il Kansas. Era l'amore ai tempi dell'Omnitel, l'amore senza casco, l'amore con la SOS ricarica, il cuore a maggese. Cambio di vocale, tamo, temo. Noi due inseparabili come narici, il tempo delle sere, il nostro primo colto interrotto insieme, la mia luna di miele. It was all a dream, abbracci da wallpaper e poi verso la friend zone, a grandi passi per l'umanità, più veloce di Jules, Jim e Catherine. Cene a lume di lava lamp e smancerie da poltergeist, nei fondi di caffè la Tour Eiffel, il soggetto per un film di Tim Burton più che per una strofa rap. Io sono Angelo, nato per diventare il campione di Avalon, con l'autorità conferitami dal nunchaku che ho estratto dalla roccia e che ora porto dentro lo zaino. Nei miei giorni migliori sono carino, se sono anche di buon umore. Nelle non rare settimane in cui tocco il fondo sono la fotocopia di Azathoth. Aspetto solo il momento adatto, come un cecchino insicuro o un viaggio last second, ma mi getterei dal cavalcavia per poter stare in macchina con te. E tu continua pure a calcolarmi 20 anni per difetto. Io preferisco banda parta a rapina a mano armata ed Edward Lewis a Gordon Gekko. E penso che tu sia ovatta e seta, plastilina e cera. La bellezza è tutto attorno agli occhi dentro quelli di chi guarda, se sono ghiaccio secco, gesso e creta. Capelli di fata e ciglia per suturare la ferita, e connettilina e brina sulla carne viva per assecondare la tua sindrome da croce rossina. Vasto bagaglio culturale di video erotici in cui avevo piegato con cura amori platonici da lasciare in ammollo sotto gli acquazzoni teorici di nuvole clandestine per frizionarli con perlana e di postumi di rimproveri. È bello solo ciò che rende cleptomani e in una scala da 1 a 10 registra un indice di gradimento di 2 pollici, caffeina e glucosio in dosi per uno grandi come porzioni che sorseggio alla finestra della mia torre d'avorio durante break lunghi come catene di Sant'Antonio. Tu sei il collirio che rende i miei occhiali lenti di caleidoscopio nell'after hour dell'adolescenza con la sola luce bianca delle sfere strobo. L'outsider con i polsi da ragazza in cerca di una bambolina skinny per giocare alla principessa più in pericolo di tutta la galassia, prigioniera della torre più alta e Sancho Panza che la salva mentre Don Chisciotte reclama il diritto ad amare intagliando iniziali su tutti i tronchi d'albero della Mancia. I rapper della Golden Age e i bohemian della Belle Époque dell'hip hop, ma la loro faccia più gangsta non regge al confronto con quella di Alain Delon, il vintage della Nouvelle Vague, la trans del cyberpunk. Il resto è il più noioso intermezzo cabarettistico prima del Big Crunch.